finalmente ho messo in piedi questa commedia perché i presupposti, il tema era identico a quello di 27 anni fa e di colpo ecco che mi è successo lo stesso guaio. Cioè la realtà non soltanto mi ha copiato, ha raggiunto, mi ha chiesto il passato e anche le cose più paradossali che avevo previsto, ecco che venivano bruciati dalla realtà, dal quotidiano, dei fatti, eccetera. Che cosa penso di quello che sta succedendo? Che prima di tutto, come ha detto un grande premio Nobel qualche tempo fa, sono felice di averlo conosciuto, di avergli parlato direttamente, lo diceva che siamo nella incoscienza e che soprattutto il difetto maggiore dei politici è quello di non conoscere, di non sapere, di essere dei perfetti disinformati, ignoranti e soprattutto pressapocari, cioè vanno a braccio, non vanno a profondo delle cose, non le studiano, non si informano fino in fondo. E allora tutto quello che dicono, i numeri, l'enumerazione, eccetera, eccetera, è a stordire. E naturalmente c'è una classe che segue, anche pur essendo sfruttata, e credono al valore delle cose che si vanno annunciando, che viene buggata. E adesso il pericolo è che questa gente alla fine si risente davvero, si risente davvero e comincia a chiedere i conti, meglio, a chiedere che si chiudano i conti.